tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito del Circolo Giordano Bruno di Milano, www.giordanobrunomi.wordpress.com, con motore di ricerca. Calendario anticlericale 2021, info@siciliolibertaria.it. Iniziamo come al solito dai misfatti clericali e iniziamo da Piacenza. Immagini o scena agli alunni a Piacenza, sospeso professore di religione, dalla Repubblica del 2 febbraio 2021. Da Genova, prescritto il fratello prete del sindaco Bucci, dal Fatto Quotidiano del 14 aprile 2021. Il giudice per le indagini preliminari di Savona ha purtroppo archiviato le indagini per presunti abusi sessuali su un dodicenne a carico di un certo prete Luca Bucci. Passiamo ora a questa vittima, ora maggiorenne, che ha scritto al Papa: sono stato abusato e il prete trasferito a Ferrara, da ilmessaggero.it del 9 aprile 2021. Il solito trucco dei preti, trasferire i preti pedofili. Da euroweeklynews.com, Barcellona, prete arrestato per pedopornografia infantile 27 marzo 2021. Prete colto in flagranza di reato. La pedofilia ecclesiastica è un fattore strutturale e non occasionale nella Chiesa. Dalla Stampa, Vatican Insider del 29 marzo. Abusi in Polonia, puniti due vescovi negligenti che coprivano i preti pedofili. Erotismo clericale dalla Nuova Sardegna. Siamo al 6 febbraio 2021, ben 375.000 euro sono stati spillati a un prete erotico che si faceva riprendere nelle sue attività sessuali con una signora che invece lo ricattava. Andiamo avanti poi dal Brasile, prete stupra donna dopo una preghiera, dal Giornale del 26 marzo 2021. Brasile, prete stupra donna dopo una preghiera. Me lo avrebbe ordinato il diavolo. Il prete è stato poi pestato a sangue dai familiari della vittima. Andiamo all'8 aprile 2021. Frate francescano incriminato dalla giuria della contea di Jefferson negli Stati Uniti. Un frate francescano, cosa aveva combinato? Episodi di aggressione sessuale e un singolo episodio di stupro nell'Ohio. Abbiamo sempre il caso della povera guerrina Piscaglia che è stata uccisa dal prete frate francescano facendone sparire il cadavere. Il periodico giallo del 21 aprile 2021, che mette sempre la data anticipata, no? E la famiglia vuole 1 milione di euro proprio perché la signora aveva un bambino, no? Quindi il prete, uccidendo la sua amante, no? Ne avrebbe ovviamente cagionato gravi danni indiretti anche al piccolo. Passiamo ad altri argomenti. La sparizione del crocifisso e le misteriose dimissioni del prete giallo in Irpinia. Avellino, giallo a Monte Calvo Irpino per la sparizione di un crocifisso d'oro del peso di 2 kg e improvvise appunto dimissione del prete, che ovviamente è stato sospettato che l'ha rubato lui sostituendolo con un oggettino di plastica in finto oro. Pranzi a scrocco in ospedale, c'era pure il prete. Da Fatto Quotidiano dell'11 aprile, pagina 12, magna magna a Gela. Facevano grandi pranzi a spese dell'ospedale e tra cui c'era anche il cappellano. Lo scandalo del Palazzo Vaticano a Londra, ordine d'arresto per il broker, l'irrintracciabile Torzi e le accuse del PM di Roma, da Quotidiano Nazionale del 13 aprile. Su Rai 3 Report, lo sterco del diavolo, 12 aprile 2021, ore 21, un bel servizio, questo broker di Lugano, a rischio di disastro, speculazione finanziaria, questo signore Enrico Grasso, ne ha combinati tutti i colori, Insomma, milioni di euro da tutte le parti, altro che poveri. Cardinal Becciu, postulatori ricchissimi, fabbrica di veleni fra di loro, fra preti, e calunnie fra preti, venga nella madre di tutte le tangenti, dice uno di quelli del servizio. La beatificazione di Aldo Moro, anche qui vogliono una bella mazzetta. Obolo di San Pietro, truffe, ricatti, corruzione. Elton John accusa la Chiesa di ipocrisia perché condanna l'omosessualità ma partecipa a lucrosissimi affari discografici con questo artista gay. Paradisi fiscali da tutte le parti, Liechtenstein, insomma Caraibi, eccetera, eccetera. Milioni di euro da tutte le parti, che però il Vaticano è rimasto scornato perché ha perso, sembrerebbe, 100 milioni di euro. Addirittura uno di questi broker vuole 40 milioni di euro di buonuscita. Alla fine sbuca sempre Gelli e i suoi clerico-fascisti. Su Fatto Quotidiano la foto del famoso Palazzo di Londra, false fatture in Vaticano, disposto l'arresto per il broker Torzi. Insomma, lo scandalo è sulla bocca di tutti i giornali. 12 marzo 2021, sacerdote ruba i soldi delle offerte per spenderli su siti porno. Siamo negli Stati Uniti, a questa chiesa di San Paolo, questo Don Yoters, finito al centro di uno scandalo, ha dilapidato appunto 150.000 dollari in offerte, in giochi. Il presidente della Lombardia Fontana, filo crocifissi, firme false e speculazioni. Quei soldi non erano della madre. Lui cerca di salvarsi da questo scandalo tirato fuori da Report. 2 aprile 2021 sulla Repubblica. Poi è sempre inchiesta in Svizzera, anche sul Fatto Quotidiano, Trust e Investimenti. Fontana così ha ripulito i milioni evasi. Qui c'è un grandi articoli. Poi si parla molto di questa abolizione della censura di Stato, per cui si parla molto del finto Totò che visse due volte, se ne parla sul Manifesto del 6 aprile con foto del film anticlericale, se ne parla sul Fatto Quotidiano del 6 aprile con una grande foto satirica dell'ultima cena. Poi passiamo all'Espresso dell'11 aprile, l'ospedale romano fate bene fratelli, la casa del sollievo di Padre Pio, mala gestione, ruberie colossali, e qui si parla appunto di questo malgoverno clericale. Viva Giordano Bruno, viva il libero pensiero, sia ad una scuola laica sia allora alternativa. Prete, se lo conosci lo eviti. Passiamo ora alle disgrazie clericali. 26 marzo 2021, padre Olimpio Ruben Rioias Velasco si suicida a Rio de Janeiro, era depresso. Su Jesus un bel articolo sulle chiese abbandonate, che evviva sarebbero ben 20.000, speriamo diventino 40.000. Abbiamo poi, dopo 800 anni, chiude il convento dei francescani della Repubblica di San Marino. Dal 12 aprile 2021 da San Francesco Patrono d'Italia.it. Anche dalla Gazzetta di Modena, buone notizie, Modena, dopo 321 anni, chiude il monastero di Baggiovara, 1 dicembre 2020. Corfinio, chiude il monastero di clausura, manca la vocazione, da il capoluogo.it, siamo in Abruzzo, mancanza di vocazioni e quindi crisi totale del clericalismo. Da Sicilia Libertaria di Ragusa, l'anticlericale fra dubbioso, a pagina 3 della rivista appunto Sicilia Libertaria, si parla appunto contro la Chiesa. Che ci venga a parlare di democrazia, uno degli ultimi monarchi assoluti esistenti sulla terra, il Papa, uno che assume in sé ogni genere, ogni potere rispetto ai suoi sudditi, e si attacca la monarchia assoluta papale. Come se la Chiesa non vivesse nell'opulenza, negli scandali finanziari, tesori sparsi nei paradisi fiscali, interessi a succhiare la linfa vitale dei paesi poveri, eccetera, insomma un durissimo attacco alla finanza vaticana. Ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie italiane viene insegnato attraverso i libri di storia approvati dal Ministero dell'Istruzione che la diffusione del cristianesimo avvenne con spontanea e pacifica adesione. Invece non è vero. Ci furono roghi, stermini, roghi non solo umani ma anche di libri, eccetera, eccetera. Si attacca a questo libro di storia di Zanichelli che racconta un fracco di palle. Abbiamo poi dall'Espresso dell'11 aprile, perché le chiese sono aperte, Stefania Rossini. E qui questa anticlericale si lamenta appunto di questo fatto. Abbiamo poi addio ad Hans Küng, teologo della libertà antipapale. Nel 1970 esce Infallibile, una domanda, il libro che contesta il dogma dell'infallibilità papale. Abbiamo poi da Il Quotidiano Nazionale del 13 aprile preti disobbedienti pronti a benedire le coppie gay, quindi preti antipapali. Abbiamo poi lunedì ore 21 su Striscia la Notizia, satira antireligiosa, invece dei testimoni di Geova, i testimoni di Gassman. Ho visto in questi giorni, ho rivisto in questi giorni il film andato a suo tempo in televisione, L'ultimo Papare, con Gigi Proietti, sempre lo consiglio come diciamo testo, come film anticlericale. Gli zuavi tedeschi sono rappresentati come prepotenti, lussuriosi, assassini. Ricordiamo come il cardinal Schuster era appunto figlio di uno zuavo del Papa. Strapotere del Papa e dei suoi sbirri, attentato contro gli zuavi papali, strage dell'anificio a Yan, gli zuavi rompono in questa fabbrica e uccidono tutti i presenti, compresi un minore, e frasi anticlericali contro gli zuavi, maledetti bastardi, li hanno ammazzati tutti. Abbiamo poi il proposito dei patrioti di vendicare Giuditta e tutta la loro famiglia. Hanno trucidato appunto la famiglia Giuditta Tavani Arquati, si ricorda il sacrificio di Monti e Tognetti, patrioti ghigliottinati dal Papa, e insomma un film che è sempre da raccomandare. Abbiamo poi dal Quotidiano Nazionale, sono innamorato, lascio la tonaca, il prete spiazza i fedeli a messa. Siamo al 13 aprile, l'annuncio dato all'altare. A Massa Martana il parroco getta la tonaca alle ortiche. Anche il Corriere della Sera ne parla molto. Il 14 aprile piango, ma la mia amante Laura è un dono. Per lei rinuncio alla tonaca, dentro di me resterò prete, ma fuori no. E a noi interessa soprattutto che abbandoni il fuori. Da Padova la vendetta contro il parroco di alcuni ragazzotti locali. Camposanto a ferro e fuoco, il PM contesta ai vandali anticlericali la ritorsione al parroco che gli aveva chiuso i campi di calcetto. Dal Corriere della Sera, edizione padovana del 10 aprile 2021. Abbiamo poi bestemmie in consiglio comunale, clamoroso a Rò in provincia di Milano. L'episodio è avvenuto durante la seduta di giovedì 8 aprile in cui si doveva approvare un importante ordine del giorno. Il capogruppo del PD Forloni lascia il microfono aperto e impreca clamorosamente. Grandissima polemica, chiedo scuse ai cittadini, eccetera, eccetera. Se viene attaccato dai filocrocifissi, eccetera, eccetera. Bene, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Saluti a tutti. Monaca facevo scuola, ora son monaca con la pistola. Quando ero monaca del campanile, ora son monaca a porto il fucile. voi santi, ora son monaca, bacio gli amanti. Quando ero monaca di questo convento, ora son monaca d'un reggimento. Son monaca, servo un plotone.